البلاد طردوا الأجداد. صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو. فلسطين عربية حرة أبية، القدس إلنا يا أحرار. قتلوا الأبطال قتلوا الأطفال. صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو. قالوا لنا سلام آه يا سلام، لا صفقة بدنا ولا استسلام. قاومنا دفعنا صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو. قالوا لنا قانون دولي يا قانون، العدالي شفنا ولا سلام. لا لا لا لا لا لا لا. صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. يا محتل اطلع buongiorno Palestina. Notizie della settimana, nonostante il coronavirus, e rassegna stampa e commenti a cura di Claudio. Dunque, a Cagliari il giudice per le indagini preliminari del tribunale ha emesso un provvedimento di condanna nei confronti del dottor Alessandro Matta, direttore dell'Associazione Memoriale Sardo della Shoah. Il dottor Matta, in più di un'occasione, aveva tacciato pubblicamente di antisemitismo l'Associazione Sardegna Palestina. Elezioni in Israele. Il successo di Netanyahu conferma il sostegno di massa in Israele al degrado della democrazia. Netanyahu non era solamente sospettato, ma ormai anche incriminato per corruzione e altri reati. Il fatto che milioni di israeliani abbiano continuato a votarlo appare dunque come un voto di sfiducia alla magistratura e al procuratore generale. Il processo è in programma il 17 marzo. Netanyahu non mostra di temerlo. Tenterà ora di sostituire il procuratore generale con uno a lui più favorevole. Il degrado della democrazia in Israele, peraltro, è un processo inevitabile, dato che ormai la popolazione israeliana è certa dell'impunità e della licenza dell'uso arbitrario della forza, che Israele va esprimendo e che la comunità internazionale non le impedisce. Dato non consolatorio, ma pur sempre positivo, di queste elezioni è il successo che la lista araba unita ha avuto, per la quale hanno votato anche molti ebrei, e la lista unitaria araba passa da 13 deputati a 15, di cui 5 donne. Lista nera ONU. È la lista delle imprese che lavorano per gli insediamenti ed il muro, di cui abbiamo dato notizia anche la settimana scorsa. È stata pubblicata dalle Nazioni Unite, però in questa lista mancano G4S, Hewlett Packard, Elbit System, Caterpillar, Hyundai, Volvo, Heidelberg Cement, Cemex, una serie di aziende, società che sono implicate negli insediamenti illegali. Come mai mancano dalla lista nera? Mistero. Nel frattempo cresce la pressione anche in Spagna sull'impresa ferroviaria basca CAF affinché rinunci all'estensione della metropolitana leggera di Gerusalemme, progettata per collegare i quartieri ebraici della città con alcuni insediamenti coloniali. Piano Trump, Unione Europea e Italia. Interrogazione al ministro degli esteri, primo firmatario Fassina, deputato di LeU. Nell'interrogazione viene richiesto se risponda al vero che nel Consiglio dei Ministri degli Esteri dell'Unione Europea il voto dell'Italia si sia unito a quello di altri 5 stati per impedire l'adozione di una risoluzione di critica al piano proposto dall'amministrazione Trump. siamo in attesa della risposta del ministro degli esteri. L'interrogazione è stata firmata da Fassina, primo firmatario, Palazzotto e Fornaro, tutti e tre di LeU. Da ultimo vorrei citare su Invicta Palestina l'articolo tradotto da Haaretz ad opera di Gideon Levy. Levy commenta delle interviste a cecchini israeliani che hanno svolto il loro cosiddetto lavoro al confine di Gaza. Levy scrive: nella striscia di Gaza ci sono 8.000 giovani disabili permanenti a seguito delle azioni dei cecchini. Ad alcuni sono state amputate le gambe e i tiratori ne sono molto orgogliosi. Nessuno dei cecchini intervistati ha rimpianti. Hanno ricordato il numero di ginocchia a cui hanno sparato. Ho contato 7-8 ginocchia in un giorno, dice uno. Nel giro di poche ore ho quasi battuto il record. Un altro: ho colpito circa 28 ginocchia. Se si sentono in qualche modo dispiaciuti è perché non hanno potuto versare più sangue. Le loro dichiarazioni dimostrano che questi giovani hanno perso la loro bussola morale. Sono persi, continueranno a studiare, ad avere una carriera, a formare famiglie e non si riprenderanno mai della loro cecità. Hanno disabilitato fisicamente le loro vittime, ma le loro disabilità sono più gravi. Le loro anime sono completamente contorte. Sono un pericolo per la società. Hanno perso la loro umanità, se mai l'hanno avuta, sulle torbiere di fronte alla striscia di Gaza. Passo ora la parola alla presentazione della trasmissione di oggi. Trasmissione riferiamo sull'intervento di Fausto Gianelli, avvocato di giuristi democratici, in un convegno a Trieste nel novembre scorso. Gianelli ha parlato sul tema Israele e Palestina, Stato etnico e colonialismo nell'epoca della post-verità. Dell'intervento di Gianelli riporteremo i principali contenuti, in quanto per motivi tecnici non c'è possibile riportare la registrazione originale. Il primo argomento che ha considerato Gianelli è quello del diritto internazionale. Cos'è dunque il diritto internazionale? Ma secondo Gianelli, il diritto internazionale è un sistema di regole vincolanti per disciplinare l'azione degli stati. È un sistema di regole che la comunità internazionale si è data dopo la seconda guerra mondiale. E questo per limitare il campo di azione degli stati, non per negarne l'esistenza. Cioè, gli stati non possono fare qualunque cosa. Devono sottostare a un ordine internazionale che dice che cosa è legittimo e che cosa non è legittimo. Israele è lo stato che ha commesso più violazioni del diritto internazionale da quando esiste, 78 volte, 78 risoluzioni dell'ONU contrarie e che Israele non ha rispettato. Ora, alle violazioni alle risoluzioni ONU possono seguire azioni che vengono decise dal Consiglio di sicurezza dell'ONU, in cui però gli Stati Uniti hanno diritto di veto e hanno sempre usato il diritto di veto per proteggere Israele. Né le risoluzioni contrarie a Israele significano negare in qualche maniera a Israele il diritto di esistere, che è uno dei vittimismi sionisti, no, che vengono ogni tanto tirati fuori. Il riconoscimento di uno Stato non deriva da una legittimazione, che sia religiosa o etnica, ma dal fatto di essersi costituito. Questo che è la sostanza della pace di Vestfalia del 1648, quella che mise fine alla guerra dei Trent'anni, è la base degli stati moderni. Quindi il diritto ad esistere di Israele, che secondo i sionisti viene minacciato, è un falso. Nessuno lo mette seriamente in discussione. Questo è il secondo argomento, memoria e post-verità. Cosa si intende con questo termine? Ma Gianelli intende con post-verità qualcosa che si costruisce intorno e dopo una notizia, mascherando la notizia e di fatto adattandola ai propri interessi. La cancellazione della memoria è l'oscuramento di una realtà che basta recarsi nella Palestina occupata per rendersene conto. Gianelli cita i libri di testo scolastici di Israele, che insegnano ai ragazzi che la popolazione araba è primitiva, nomade, viene illustrata a cavallo di asini o di cammelli, in una parola, una popolazione incivile. Libri di testo dove i villaggi palestinesi o non sono indicati oppure sono indicati solamente come pericolo da evitare. Si tratta della disumanizzazione dei palestinesi. E dalla disumanizzazione il passo è breve poi per passare alla negazione di uguali diritti. Vi è stata una indagine da parte di Haaretz, è un quotidiano israeliano, prima delle ultime elezioni, sull'orientamento elettorale di giovani israeliani. Alcuni si dichiaravano di destra, altri di centro, altri di sinistra, alcuni religiosi, tutti bravi, alcuni non religiosi. Tutti bravi ragazzi, diciamo, nessuno con espressioni fanatiche, ma tutti con una medesima caratteristica. Nessuno di loro conosceva la realtà della Palestina occupata. A questo proposito, a proposito dei libri scolastici in Israele, Gianelli cita quello di Nurit Peled, che è una docente di lingua e educazione all'Università Ebraica di Gerusalemme. È autrice di un libro dal titolo La rappresentazione dei palestinesi nei libri di testo israeliani, edito dal gruppo Abele. Lei venne a presentare questo libro personalmente in Italia, in particolare a Firenze, nella sede della Regione Toscana nel febbraio del 2016. Passiamo ora al terzo punto, la questione del razzismo. Allora, dice Gianelli, si pensa spesso che un paese razzista faccia delle leggi razziste, ma, dice Gianelli, è piuttosto il contrario. Sono le leggi discriminatorie che creano un'attitudine al razzismo. Attraverso le leggi si realizza la situazione di fatto in cui l'altro non ha il tuo stesso status ed è attraverso questa situazione di fatto che la gente si va convincendo che l'altro, non avendo il tuo status, nemmeno lo merita. È quello che è avvenuto in Italia con le leggi antisemite nel 1938. Quarto punto, la costituzione di una democrazia etnica. Cosa Oh, ne pensi? dichiarandosi democrazia ebraica, Israele tenta di aggirare l'accusa di apartheid, dichiarando non di dare meno diritti ai palestinesi, bensì di dare più diritti agli ebrei. Secondo questo criterio, le leggi israeliane, anche quelle riguardanti i diritti umani, debbono sempre rispettare il fatto che Israele è uno Stato ebraico. Quinto punto, invece, i beni e la proprietà pubblica. Che lo Stato è ebraico comporta altresì che le proprietà pubbliche, proprietà della terra, per esempio, sono affidate a un fondo privato, dal quale questi beni non possono venire acquisiti da non ebrei. La terra quindi viene acquisita attraverso meccanismi di appropriazione che abbiamo illustrato poi in altre trasmissioni e che non stiamo a ripetere, ma i non ebrei non possono più tornare in possesso della terra, non possono più riacquistarla. Si può dire quindi che i palestinesi hanno perso il diritto al ritorno? Hanno perso il diritto al possesso della terra, la terra è attraverso meccanismi che sono stati legislativi, che sono stati di confisca, attraverso meccanismi contorti, hanno perso il possesso della terra, che era di proprietà palestinese all'indomani della guerra del 48 e che in pochissimi anni è diventato tutto di proprietà del fondo israeliano, che era un fondo gestito solamente per proprietari ebrei. A questo punto direi che sarebbe necessario fare uno stacco musicale. Trump sta influenzando la situazione. Ma dunque, Trump sposta a Gerusalemme l'ambasciata statunitense, riconosce le colonie illegali, prevede l'annessione della Valle del Giordano, di fatto viola la Convenzione di Ginevra, secondo cui l'articolo 48 della Convenzione di Ginevra, l'occupante non può costruire colonie nei territori occupati. Quindi Trump riafferma la legge del più forte. Chi ha una forza militare soverchiante non può essere richiamato a rispettare la legge internazionale. Settimo ed ultimo punto. Israele come stato postmoderno? Postmoderno e postdemocratico, o meglio, a democrazia autoritaria. Apripista di questo degrado della democrazia è la Turchia. Il modello è: la maggioranza si prende tutto. E le modalità quali sono? Sono queste. Una parte della popolazione diventa il nemico. Si legittimano le esecuzioni extragiudiziali, cioè di fatto gli omicidi mirati dei nemici. Il fatto che i diritti ci sono solamente per la maggioranza e, gravissima, la legittimazione della tortura, che viene sostenuta in certi casi anche da parte di autorevoli esponenti statunitensi, quali Alan Dershowitz. Dershowitz è uno degli avvocati del collegio di difesa di Trump contro l'impeachment. E Dershowitz sostiene che certe tecniche di tortura, se precedentemente autorizzati da alti responsabili, possono venire legalmente adottate. La motivazione è: le nostre società sono sotto assedio e quindi torturarne uno serve per salvarne molti dei nostri. Il modello israeliano va tenuto sotto osservazione, secondo Dershowitz. E la tortura è d'uso in Israele solo nei confronti dei palestinesi, ben inteso, che hanno un peccato originale, sono diversi per stirpe, per razza, per religione. Si tratta dunque di un modello di Stato postmoderno, quello rappresentato da Israele, moderno per regimi di destra mondiali, quali il Brasile di Bolsonaro, e guardato con interesse anche da molti esponenti statunitensi. Possiamo dunque permettere questo gigantesco buco nero nel diritto internazionale? Con questa domanda vi salutiamo e vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo alle 19. Potrete comunque riascoltare questa trasmissione, così come quelle precedenti, cliccando su podcast nel menu di Radio Wombat. A risentirci quindi al prossimo mercoledì. راح ترجع بلدي كلها راح ترجع وراح يدول الاحتلال شعب الاحرار صاحب القرار صفقة جان صفقة جان صفقة جان جان جان لا صفقة ظل ولا صفقة عار فلسطين عربي حرة أبية القصة إلنا يا أحرار صفقة جو صفقة جو صفقة جو جو جو استنارة.